Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È il 349-238-6666, il numero per intervenire in diretta via SMS naturalmente. Iniziamo dai mercati, è dovuta la cosa. Dopo un attimo di speranza, se così possiamo dire, con un'apertura di Wall Street tutto sommato non così negativa e poi virata in positivo, vediamo adesso che le borse stanno di nuovo virando al ribasso, insieme proprio all'America. Il Dow Jones è tornato sotto gli 11.000 punti dopo aver riguadagnato quota 11.000 in giornata, cede lo 0,15%, lo Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,07%, il Nasdaq lo 0,40%. Le borse europee a ruota, che già andavano male questa mattina dopo la giornata terribile di ieri, perdono tutte. Francoforte cede l'1,37%, Parigi l'1,10%, come sempre la peggiore è Milano, -1,65% sul FTSE MIB, -1,40% per il FTSE All Share. Questa è la situazione. Sotto pressione ci sono sempre i soliti titoli, quelli dei quali vi abbiamo parlato ieri. C'è Fiat Industrial che lascia sul terreno il 5%, Fiat il 3,09%, giù le banche. Unicredit -4,7%, Intesa San Paolo -4,4%, UBI Banca -4,07%, fa eccezione la Popolare di Milano che guadagna il 4,5%. Questo è il quadro e di questo parleremo, e soprattutto parleremo dopo anche i dati dall'America dei quali vi abbiamo parlato ieri, in particolare l'indice Philadelphia Fed che misura l'attività economica di quella zona del paese. Come sapete questi indici non si misurano in percentuale ma si misurano in punti. Di solito i movimenti ai quali siamo abituati ad assistere sono di un punto, due punti, tre, quattro, cinque se vogliamo. Ebbene, ieri si è passato dai due punti circa, se non erro, insomma, vado a spanne, a meno 30. Questo ha avuto un impatto naturalmente decisivo sulla giornata di mercato di ieri ed è un segnale che molti interpretano, associato a molti altri, per esempio il calo nettissimo del prezzo del greggio di questi giorni, che molti associano alla possibilità di una nuova recessione. C'è chi parla addirittura di depressione. Perché di fatto la recessione c'è quando si viene da un periodo di crescita abbastanza energico, e questo periodo di crescita abbastanza energico non è che l'abbiamo visto un granché, quantomeno da questa parte dell'oceano, e gli Stati Uniti non sono messi così bene. Quasi quasi mi meriterei un gufo, ma lo lasciamo Sebastiano Barisoni per quando tornerà, ed è di questo che parleremo in apertura. Parleremo anche ovviamente come sempre dei singoli titoli e di come stanno andando, ci sono motivi particolari per i movimenti dei singoli titoli in borsa, e poi parleremo con il presidente del Censis, Giuseppe De Rita. Come ricorderete l'abbiamo ospitato qualche settimana fa per parlare del documento messo a punto dalle parti sociali, da tutte le parti sociali, per chiedere al governo una spinta sulla crescita. Oggi lo ospiteremo per un altro motivo, parliamo di aeroporti, di infrastrutture, e viste anche le ultime e continue proteste per quel che sta succedendo in Val di Susa, per la TAV in Val di Susa, parleremo anche di questi temi, di come si crea il consenso della popolazione alla creazione di nuove infrastrutture. Questo è quello di cui parleremo oggi, le notizie in breve. Ci chiedete perché Milano è sempre la peggiore, dimensioni, capitalizzazioni, in realtà succede che hanno un peso molto forte sul listino milanese i titoli bancari, che sono quelli che soffrono di più, i titoli finanziari, che sono quelli che soffrono di più in questi periodi. Poi mettiamoci pure Fiat e insomma il risultato è fatto. L'oro non ce lo facciamo mancare nemmeno oggi, altro record sopra $1,870, balzato del 2,6%, per la precisione a $1,871,50 l'oncia. E non ci facciamo mancare nemmeno oggi il calo del petrolio, meno 0,8% ad $81,73 al barile. Il mercato dei cambi. Sul mercato dei cambi oggi un altro dato storico. Il dollaro ha toccato i nuovi minimi storici della Seconda Guerra Mondiale contro lo yen, scivolando a quota 75,943 yen. E poi altro dato storico, i titoli di Stato della Gran Bretagna hanno toccato i minimi storici, arrivando a sfiorare livelli registrati addirittura in epoca vittoriana. Il record è del 2,24%. L'ultimo cancelliere dello scacchiere, ci segnalano, che ebbe la fortuna di prendere a prestito denaro con un tasso così favorevole fu Sir Michael Hicks Beach. Correvano gli anni 90, ma non del secolo scorso, di quello ancora prima, del 1800. Per quanto riguarda invece i titoli di Stato di casa nostra, in avvio dei mercati è salito lo spread, ossia il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, è arrivato intorno ai 290 punti, più o meno è lo stesso livello, sullo stesso livello sono quelli spagnoli, stanno correndo in parallelo. Nel frattempo poi la BCE è intervenuta, si è appreso che, secondo alcune fonti, perché la BCE non lo dice ufficialmente, è tornata a comprare sul mercato i titoli di Stato italiani e lo spread è tornato a scendere. E poi ci sono i credit default swaps, vi ricordiamo ancora una volta che cosa sono, è inutile spiegare il meccanismo nel dettaglio perché sarebbe eccessivamente complicato. Consideriamoli come una sorta di assicurazione sul rischio di fallimento di un paese. È come le assicurazioni dell'auto: per l'auto o per la casa, più sale il rischio, più sale il premio. Che cosa è successo? Che è aumentato il costo per assicurarsi contro il default degli stati periferici dell'Eurozona. Per quanto riguarda Italia e Spagna, il costo dei CDS, dei credit default swaps, è salito di 10 punti base, rispettivamente a 264 e 374 punti. Per il Portogallo di 6 punti ad 882, per l'Irlanda di 8 punti a 794 punti e per la Grecia di 46 a 1922 punti base. Poi ci sono le questioni che riguardano più strettamente casa nostra, la manovra. Calderoli dice: nessuna apertura sulle pensioni, stanno bene come stanno. Quindi torna a ribadire l'opposizione della Lega a muoversi sulle pensioni. Nel frattempo dice che dal vertice del Carroccio in agenda lunedì arriveranno le richieste di modifiche. Il sottosegretario Crosetto intanto dice: la manovra va corretta con la scure e non con il bisturi, fa parte dei cosiddetti dissidenti del PDL. Tremonti è un grandissimo fiscalista ma impulsivo, permaloso e aspro. Nel frattempo dice il cardinale della CEI Angelo Bagnasco, chiedendo attenzione per le famiglie: le cifre dell'evasione fiscale sono impressionanti. A parziale testimonianza di quello che dice il cardinal Bagnasco, e che in realtà sapevamo già, ci sono dei dati interessanti diffusi dal CESCAT, Centro Studi Casa Ambiente e Territorio di Asso Edilizia. Nei primi mesi del 2011, l'evasione fiscale presunta del comparto del turismo si aggira intorno ai 13 miliardi e mezzo di euro. Complessivamente il giro d'affari del nero del turismo in Italia nel 2011, secondo il CESCAT, supera la cifra di 36 miliardi di euro. Evasione fatta soprattutto di scontrini non emessi, IVA non dichiarata, imposte sul reddito evase. Evadono principalmente, dicono, ma non esclusivamente, pensioni, bed and breakfast, accommodation di tipo familiare, stabilimenti balneari, per carità, bar e ristoranti. Questo è il quadro della manovra. Se arriveranno altri dettagli, naturalmente ve li daremo nel corso della trasmissione. Veniamo al primo tema di giornata, ossia questa marcia verso una nuova recessione. Scrivete al 349-238-6666, è una cosa che abbiamo notato già ieri. Vedete che i bancari che non si possono vendere allo scoperto sono i peggiori? Sì, lo vediamo. Evidentemente l'efficacia della mossa della Consob è stata assai transitoria, della Consob e di altre autorità europee. Saluto il professor Giacomo Vaciago, economista all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Professor Vaciago, buonasera. Buonasera a tutti. E Moria Longo del Sole 24 Ore in studio con noi. Moria, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, professor Vaciago, già ci chiedono recessione, depressione, di che cosa stiamo parlando? Che sensazione ha lei? Mancata crescita. Non siamo mai riusciti a tornare a crescere come avevamo saputo fare anni passati. A questo punto, se tutti facciamo disciplina di bilancio e tagliamo i deficit pubblici, che è lo slogan, ahimè, purtroppo molto diffuso negli ultimi mesi, sui due lati dell'Atlantico, e a quel punto la recessione è il male minore, è anche inevitabile. Fare politiche coordinate non vuol dire fare tutti la stessa cosa. Qui purtroppo anche Sarkozy e la Merkel dovrebbero andare a scuola, perché è inutile che loro facciano la predica a noi, tagliamo tutti i debiti, mettiamo tutti in costituzione il pareggio, eccetera. Ci vuole intelligenza, e un gioco coordinato può essere chi ha poco debito faccia per piacere politiche espansive, chi ne ha troppo solo lui tagli sto debito. Se ci mettiamo a fare tutti manovre recessive, la recessione non solo è inevitabile, è voluta. E però i segnali concreti, professori, che sembrano arrivare anche dall'altra parte dell'oceano, sembrano indicare che se non ci siamo, poco ci manca comunque. Ma questo è quello che mi preoccupa. Mutatis mutandis, si sta ripetendo quello che 30 anni fa era con l'inflazione. Avevamo una malattia che era inflazione a due cifre, dopo il petrolio, eccetera. Ci siamo inventati delle recessioni gravissime per riuscire a fare quelle politiche e quelle riforme, ricordo la scala mobile, eccetera, che finalmente risolsero il problema dell'inflazione. Da allora nessuno di noi è più riuscito ad avere inflazione a due cifre, anche quando il prezzo del petrolio va alle stelle, e che è il problema del passato. Adesso, negli ultimi 10 anni, abbiamo fatto troppi debiti privati e o pubblici, e adesso il nuovo mantra è vanno ridotti, e quindi ben venga la cura moralistica, diciamo, di una recessione che ci siamo meritati. La Grecia e la Spagna sono già lì a indicarci il nostro futuro. Grecia, Spagna, Portogallo. Allora, nel frattempo oggi, giusto per aggiungere qualcosina d'altro, mentre un ascoltatore ci scrive: Schiller previde la bolla immobiliare, Rubinil Double Deep, Rogoff 7 anni di crisi ed uscita dal debito con inflazione programmata. Vi segnaliamo anche che oggi, giusto per rallegrare la giornata, che JP Morgan ha tagliato le stime di crescita degli Stati Uniti parlando di rischi elevati di recessione. Le previsioni per il terzo trimestre, dice, sono appena più accomodanti rispetto alle precedenti, mentre peggio andrà nei trimestri a seguire. Negli ultimi 3 mesi dell'anno il PIL americano crescerà dell'1%, dice JP Morgan, mentre tra gennaio e marzo 2012 la crescita si limiterà ad un più 0,5%. E ancora citato dall'ascoltatore Nouriel Roubini in un'intervista a Repubblica dice: nella periferia di Eurolandia, 5 paesi, Grecia, Irlanda, Portogallo, Italia e Spagna, sono già in recessione. Questo il quadretto, per così dire, dal lato economico. Poi verremo un po' più nel dettaglio ai mercati. Tra l'altro vi dico, le cose comunque sono negative anche oggi: il Dow Jones cede lo 0,35, il Nasdaq guadagna appena lo 0,06%, lo Standard & Poor's perde lo 0,18 e Milano perde circa 2 punti percentuali. Nel frattempo, con Moria Longo, io voglio partire da un altro tema. È una questione che abbiamo solamente sfiorato nella trasmissione di ieri, ed è il tema che riguarda le banche e conseguentemente riguarda tutti noi, della liquidità. Ci sono stati parecchi allarmi da questo punto di vista nelle ultime settimane, alcuni giustificati, altri no, o chissà, che di nuovo, come allora, le banche fatichino a trovare denaro. Allora, gli allarmi a cui ti riferisci sono arrivati nell'ultima settimana soprattutto. Si è iniziato settimana scorsa con la voce che Société Générale, una delle maggiori banche francesi, forse a corto di liquidità. Addirittura si è sparsa la voce che stesse vendendo oro sotto i prezzi di mercato, cosa che poi è stata smentita da Société Générale. Non so ovviamente se sia vero o no, la smentita c'è, Société Générale fino a prova contraria è ancora lì. Poi si sono aggiunte altre voci su altre banche francesi, dopodiché ieri c'è stato il capo economista della banca centrale svedese che ha detto che il mercato interbancario europeo, il mercato interbancario è quello attraverso il quale le banche si prestano i soldi l'una con l'altra, è vicino, testuali parole, al collasso. Ieri c'è stato un articolo del Wall Street Journal che è stato un po' anche travisato da molte persone, che sostanzialmente diceva che le banche europee non hanno più accesso al mercato interbancario in dollari, quindi negli Stati Uniti. Allora, eliminando tutto quello che può essere sovravoci e sovra, diciamo, indiscrezioni che sono in parte state smentite, io credo che la verità dei fatti sia a metà strada tra l'allarmismo e la tranquillità. Allora, il mercato interbancario, cioè appunto quello in cui le banche si finanziano, una delle principali fonti di finanziamento, soprattutto a breve termine delle banche, è in gran parte ingessato. Negli Stati Uniti le banche europee riescono a ottenere prestiti in dollari soltanto, mi dicono gli operatori, massimo una settimana di durata. Dopodiché prestiti a durate più lunghe. Maria, ti interrompo solo un attimo in questo ragionamento, giusto per chiarire agli ascoltatori che non è che stiamo parlando di qualcosa di livello elevatissimo e che riguarda solo le banche. Cioè, nel momento nel quale le banche non trovano quattrini, sostanzialmente, non trovano liquidità, si blocca anche il credito alle persone, alle imprese. Nel momento in cui una banca non trova quattrini, una banca collassa, nel senso Lehman Brothers è caduta per questo, perché se una banca ha bisogno continuamente di rifinanziare debiti in scadenza, una banca vive di debiti e crediti ovviamente. Nel momento in cui una banca non riesce a rifinanziare le scadenze che sono continue, soprattutto sul mercato interbancario dove si parla di una settimana, un mese, 3 mesi in massimo, ovviamente si trova a corto di liquidità e va in fallimento. Quindi questo è uno spettro in cui Lehman Brothers è caduta nel 2008. Allora, la situazione è attualmente che negli Stati Uniti il credito alle banche riescono a trovare sempre sul mercato interbancario a brevissimo termine, una settimana. In Europa pure, al massimo si parla una settimana o poco di più. Questo cosa significa? Che le banche sul mercato interbancario, quindi sul mercato, riescono a ottenere liquidità, ma talmente a breve termine che basta che settimana prossima succeda qualcosa e si inceppa tutto, e quindi è un rischio altissimo. C'è però da dire che la situazione è mitigata, smorzata e resa più fluida dalla Banca Centrale Europea, che sta prestando soldi alle banche. Tutti i soldi che le banche servono, la BCE ha una serie di misure per finanziare le banche molto, diciamo, molto larghe, per cui per esempio do solo un dato: le banche italiane a giugno hanno ottenuto dalla Banca Centrale Europea 40 miliardi di euro di finanziamenti, a luglio, quindi un mese dopo, 80 miliardi erano raddoppiati. Quindi diciamo che mamma BCE è in grado comunque di far fronte a questa situazione. Quindi io credo che la morale sia questa: il mercato interbancario, quindi la principale fonte di finanziamento a breve termine delle banche, si sta prosciugando, è in una situazione di grande restrizione, ma non siamo ancora al collasso come si diceva ieri, o non c'è particolare evidenza di banche sull'oro del default come Lehman Brothers. Detto questo, però, è ovvio che in una situazione di grande incertezza, in cui i titoli delle banche crollano il 15% praticamente tutti i santi giorni, è ovvio che tra le banche c'è meno fiducia a prestarsi soldi l'una con l'altra, e quindi il mercato si sta avvitando. Quindi un problema c'è, però ecco, diciamo, non mi sembra di capire che siamo in una situazione di totale chiusura, come alcune indiscrezioni in questi giorni lasciano trapelare. A proposito di liquidità, professor Vasciago, ci scrive un ascoltatore, dice: ma perché non facciamo, ed è un tema che abbiamo dibattuto moltissimo tra il 2008, il 2009 e così via, perché non facciamo come gli americani, insomma, cambiamo questo benedetto mandato della Banca Centrale Europea, che in questo momento prevede di fatto solo il controllo dell'inflazione, e quindi puoi, come dire, chiudere il cancello quando i buoi sono già scappati, perché l'inflazione tendenzialmente inizia ad essere abbastanza bassa quando la recessione è già avviata, e le consentiamo di agire sulla crescita, quindi di tagliare i tassi anche sulla base delle necessità del mercato. A vedere l'America in questo momento, forse non è nemmeno quella la soluzione, professore. Beh, anzitutto diciamo che, come prima sottolineavo, questa mania delle banche centrali che devono avere un solo occhio, cioè guardare solo la stabilità dei prezzi, è in fase di superamento. La Bank of England è già tornata indietro, cioè gli inglesi si sono già accorti che Blair aveva sbagliato a imitare la BCE, dimezzando la Bank of England e togliendogli la vigilanza e i controlli prudenziali. Gli hanno già restituiti, la Bank of England è già tornata una banca centrale con due occhi e due braccia e due gambe, visto che due sono gli obiettivi, stabilità monetaria e stabilità finanziaria. La BCE è nata amputata, ma lo sappiamo già da tutto il dibattito sugli euro bonds. L'unione monetaria e l'euro è un percorso, è ancora un'unione monetaria incompleta. Abbiamo solo la moneta e non abbiamo ancora il bilancio pubblico e non può emettere bonds. Un qualche Stato d'Europa che non c'è. Gli Stati Uniti d'Europa mica ci sono. Allora, le persone intelligenti pensano che quando ci sono le gravi crisi, i governi successivamente fanno passi avanti. Il pericolo è che facciamo passi indietro, che mi esca la Grecia, che mi esca il Portogallo. Io spero fortemente che i miei figli vedano, i miei nipoti ormai, vedano un'Europa unita, e quindi che questa grave crisi, che è tutto meno che finita, serva ad andare avanti. Avremo finalmente, forse già con Draghi, una banca centrale vera che ha due occhi, due mani e due gambe, e quindi si occupa di ambedue i problemi per cui le banche centrali sono nate nella storia. E allora avremo anche gli eurobond e così via, e forse la Merkel e Sarkozy la smetteranno con arroganza a farci prediche, essendo solo capi di Stato stranieri e non ancora che parlano a nome dell'Europa. Mi sembra chiarissimo, insomma, in sostanza lei dice la questione è essenzialmente una questione di politica, molto, molto semplicemente, cioè di politica e di capacità politica, e questo è il tema centrale. Il Brescia è bravissimo a forzare la lettera del trattato istitutivo e a far fare alla BCE ciò che formalmente non potrebbe, ma per mantenere in essere la politica monetaria a fini di stabilità monetaria, compra titoli di Stato dei paesi in default, noi compresi. Cavoli, che bravo quel Trichet. Il trattato glielo proibisce, ma lui lo fa perché altrimenti si interrompe il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, che di questi tempi è un eufemismo. Ci sembra chiarissimo, professor Vaciago. Chiuderei con te questa pagina, Moria, che dedichiamo al mercato. Allora, a me sembra francamente che alle viste non ci sia grande soluzione politica, insomma, alle viste, almeno da quel che abbiamo visto. Peraltro, vi segnaliamo che ancora una volta oggi continua questo eterno dibattito tra vari pezzi dell'Europa, per cui se 3 giorni fa Angela Merkel e Nicolas Sarkozy avevano escluso qualsiasi ipotesi di Eurobond, oggi il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn di Bruxelles ha detto invece no, insomma, sto lavorando su una bozza, ci sto pensando, una cosa sulla quale stiamo ragionando. Ovviamente anche questa completa incertezza e questa incapacità comunicativa sulla quale ci siamo soffermati spesso, Moria, che ai mercati non piace per niente. No, anche perché la situazione è abbastanza grave, nel senso che ci troviamo con una crisi nata per il debito, l'eccesso di debito privato e pubblico, e in gran parte privato diventato poi pubblico con vari salvataggi delle banche. Una crescita economica che non c'è e rischia di andare in recessione per la seconda volta, lo chiamano double dip gli americani, cioè doppia caduta, e la crescita economica in una situazione di bassa o addirittura recessione, in una situazione di alto debito, è quanto di peggio possa capitare, perché per rimborsare, ridurre i debiti servirebbe crescita economica, ovviamente, quindi a maggior ragione la recessione sarebbe doppiamente negativa. A questo si aggiunge un sistema bancario fragile, sempre fragile, lo dicevamo prima, sistema bancario fragile perché da un lato le banche sono troppo grandi, hanno una leva finanziaria troppo grande, dall'altro sono piene degli stessi titoli di Stato degli Stati che molto spesso hanno salvato le banche, quindi gli Stati salvano le banche finanziano gli Stati per salvare le banche, quindi è un cortocircuito gigantesco. In questa situazione quindi di altissimo debito, recessione in arrivo, comunque forte rallentamento economico, e banche, comunque sistema finanziario in difficoltà, abbiamo un sistema politico che non solo non è in grado di prendere una decisione paragonabile a quella che fu il New Deal dopo la crisi del 29, ma non ha neanche capacità di prendere una decisione che sia univoca. Allora uno dice una cosa, quell'altro ne dice un'altra e quell'altro ancora ne dice un'altra. Gli Stati Europei, perché l'Europa viene bersagliata più degli Stati Uniti? Se si vanno a vedere i dati di bilancio, l'Europa avrebbe, se fosse un'Unione Europea vera, bilanci molto migliori degli Stati Uniti, sia a livello di debito pubblico, sia a livello di deficit, sia a livello di debito privato, soprattutto per quanto riguarda le famiglie. Il problema è che l'Europa non esiste, l'Europa sono 17 capi di Stato, ognuno che guarda i propri interessi elettorali del momento alle elezioni regionali nel Lander o che ne so, nella regione, e allora questo rende una grandissima incertezza. Quindi l'idea che hanno i mercati è di un'Europa che ha gravissimi problemi come gli Stati Uniti, ma è un tipo un camion che non ha un autista, o comunque un autista ubriaco che dorme. Ecco, quello è il problema. Chiarissimo anche Moria Longo, grazie al professor Giacomo Vaciago, economista all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Buonasera professore. Buonasera a tutti. E grazie anche a Moria Longo del Sole 24 Ore. Vi ricordo naturalmente, come al solito, di tutti questi temi sul Sole 24 Ore domani in edicola troverete parecchio materiale. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. Andrea Fontana, Radio Corri, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. E anche stasera siamo riusciti a chiudere sotto i 2 punti percentuali di calo. Sì, il faro della giornata è stato Wall Street, che ha un po' orientato i listini continentali, e il peggioramento di Wall Street in questo finale di seduta, dove il Dow Jones perde lo 0,6%, ha spinto in basso i listini europei e ha penalizzato soprattutto Milano, che ha chiuso ancora una volta da fanalino di coda, perdendo il 2,5%, con bancari e Fiat ancora protagonisti in negativo. Veniamo proprio ai bancari, perché poi questa è la domanda che al 349-238-6666 ci è arrivata in questi giorni. Insomma, questo blocco e la vendita allo scoperto dei titoli evidentemente non ha funzionato un granché, perché anche oggi, così come ieri, tutti giù. Sì, quasi tutti, in realtà, perché poi, se non ero, ma ci sono altri motivi, la Popolare di Milano ha guadagnato il 3,20. Comunque veniamo in generale al settore. Sì, certamente oggi giornata negativa per il settore, anche perché i timori sulla liquidità e sulla capacità delle banche di finanziarsi hanno penalizzato l'intero settore in tutta Europa, tant'è vero che il comparto ha perso l'1,5% in base all'indice Eurostox di settore. Sicuramente chi si illudeva che il blocco delle vendite allo scoperto potesse frenare le vendite ha dovuto ricredersi, ma del resto la storia ha già insegnato in questo senso. 3 anni fa un medesimo provvedimento aveva casomai limitato la volatilità sui titoli, ma non certo frenato il rosso, e quindi anche il provvedimento sui bancari, e abbiamo visto anche non solo su Milano ma anche su Parigi e sulle altre piazze che sono interessate a questo provvedimento, anche Bruxelles e anche Madrid, abbiamo visto come gli investitori abbiano penalizzato il settore ugualmente, indipendentemente dal blocco delle vendite allo scoperto. Questo è il quadro per quanto riguarda i bancari, e c'è un motivo particolare per il quale la Popolare di Milano ha guadagnato il 3,20% e Mediobanca è riuscita a tenersi sopra la parità, anche se appena sopra, un più 0,16? Motivi specifici non ci sono. Va detto che in queste 2 settimane la Popolare di Milano, che è stata fortemente penalizzata nella fase cruciale della discussione su aumenti di capitale, cioè nei mesi di maggio e giugno, ha saputo essere oggetto di attenzione da parte degli investitori e ha sempre recuperato per prima quando il mercato gli ha lasciato qualche spiraglio. Però non ci sono motivi specifici né fondamentali per spiegare un rialzo alla Popolare di Milano, che peraltro deve ancora comunicare i dati semestrali, così come altre popolari lo farà nel corso della prossima settimana. Fiat invece, Fiat di nuovo molto pesante, soprattutto Industrial giù del 6,4% e Fiat S.P.A. del 4,3%, la controllante Exor cede il 3,72%, ma può essere che siano ancora i dati dal Brasile? Ma, insomma, quelli di 2 giorni fa, Andrea? Sì. I dati dal Brasile hanno avuto un'influenza, ma insomma, anche sentendo gli operatori, insomma, non amplificherei l'influenza dei dati sul Brasile con 3 giorni di ribasso per Fiat Industrial. Certamente non erano dati positivi, ma insomma, il mercato sta ragionando più che altro su quelle che sono le prospettive di Fiat Industrial in relazione a un andamento in recessione dell'economia. Per quanto riguarda l'industrial, poi sono emersi ieri le indicazioni di un concorrente diretto di Fiat Industrial negli Stati Uniti, che è John Deere, che pur comunicando dati sulla prima parte dell'anno positivi, ha visto in negativo la seconda parte del 2011, le prospettive del 2012. Questo non è piaciuto al mercato, e non è piaciuto in particolare per quanto riguarda la giornata di oggi a Goldman Sachs, che ha abbassato la raccomandazione sul titolo Fiat Industrial, mettendosi in una posizione più cauta, ovvero una posizione neutrale, mentre prima consigliava ai clienti di aumentare l'esposizione del portafoglio sulle Fiat Industrial. Bene, oggi anche Finmeccanica. Sì, un rimbalzo importante per Finmeccanica, anche se poi contenuto, perché è arrivata a guadagnare quasi il 5% nel corso del pomeriggio, e poi il rimbalzo si è limitato a un 2,8%. Va detto che però Finmeccanica ieri ha segnato dei nuovi minimi, i minimi storici intorno all'area 4,5 euro, quindi una ricopertura era anche attesa. C'è da dire che poi gruppo Finmeccanica, inteso come Finmeccanica e Ansaldo STS, che oggi ha chiuso poco sotto la parità, ha anche beneficiato di un nuovo contratto per quanto limitato di una dozzina di milioni di euro per Ansaldo STS in Germania, quindi attenzione sui due titoli del gruppo Finmeccanica, ma il rimbalzo di Finmeccanica insomma era abbastanza atteso. Oggi è stata una giornata nella quale c'è stata grande attenzione sui tecnologici, in quest'ambito ha recuperato ST Microelectronics. Sì, ha recuperato ST Microelectronics, ha recuperato Infineon, ha recuperato le altre società del attive nei semiconduttori, anche se è stata una giornata diciamo molto agitata per i tecnologici, perché HP con una decisione storica ha deciso di scorporare la propria divisione personal computer, ha deciso di uscire dal settore dei tablet PC e ha rivisto le indicazioni di crescita sull'esercizio, tant'è vero che è la più penalizzata di Wall Street e perde quasi il 20%. Ha però lanciato un'offerta su una società di software inglese che ha quindi diciamo messo attenzione al mercato dei tecnologici sotto il profilo delle operazioni di acquisizione e diffusione, e insomma questo ha portato un po' di attenzione sui tecnologici, e anche S&T ne ha beneficiato per gran parte della giornata, anche se poi ha chiuso sulla parità. Grazie anche per oggi, colleghi di Radio Corri, Il Sole 24 Ore, ad Andrea Fontana. Buonasera Andrea. Buonasera. Ancora sul tema l'Europa, la crisi, ci dite il 76% dei tedeschi gli eurobond non li vuole, peraltro secondo i calcoli diffusi ieri dall'istituto di ricerca IFO costerebbero gli eurobond alla Germania 47 miliardi all'anno in più di interessi, quindi c'è un motivo per il quale i tedeschi dicono no, ma naturalmente i ragionamenti sono altri. E poi ci dite c'è il rischio che qualche banca italiana venga comprata da non italiani, non essendo più granché care, tutto sommato è anche possibile. Tenete presente che anche le altre banche nel resto del pianeta non è che siano andate un granché bene nell'ultimo periodo. Comunque, parliamo adesso di infrastrutture. Nei giorni scorsi sono arrivate buone notizie per l'aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci, che nell'ultimo anno ha accolto 36 milioni e mezzo di passeggeri, l'11% in più dell'anno prima, segnando il miglior risultato dopo Monaco tra i grandi scali europei. Allora, anche alla luce di questo sembra più opportuno, necessario, un ampliamento del principale scalo della capitale, la creazione di un distretto aeroportuale. Lo rileva uno studio realizzato dal Censis. Di questo e di altri argomenti parleremo con il presidente dell'Istituto di Ricerche, appunto il Censis, Giuseppe De Rita. Buonasera. Buonasera a lei. A questo punto serve uno scatto, dite nel vostro rapporto, in sostanza. Serve uno scatto per due ragioni. La prima è che l'acquisizione di quote di mercato da parte dell'aeroporto di Fiumicino fa pensare che oggi la nostra quota di mercato sia tale che al 2030 noi si possa pensare addirittura a una triplicazione dell'attuale movimento passeggeri, cioè da 35-36 milioni l'anno a 90 milioni. Questo è del tutto naturale, non è soltanto un'estrapolazione del trend, è anche una valutazione che è normale del fatto che l'aeroporto di Fiumicino è forse l'unico hub europeo che abbia la testa altrove, che abbia cioè l'orizzonte africano, che abbia in parte l'orizzonte sudamericano, che abbia certamente l'orizzonte medio orientale, cioè i luoghi dove probabilmente si farà più storia nei prossimi anni. E quindi l'idea di avere un aeroporto nel Mediterraneo capace di fare traffico e di fare sostanzialmente connettore di viaggi e di affari verso questi nuovi orizzonti di sviluppo mi sembra essenziale. E quindi non è soltanto la prosecuzione del trend, ma anche una valutazione della politica generale del viaggio aereo. Naturalmente questo comporta anche un tipo di valutazione sul piano quantitativo. L'attuale aeroporto non reggerebbe, già oggi ha qualche problema a reggere i 35 milioni. Immagino che se dovessimo andare verso i 60-70, se poi dovessimo addirittura fare le Olimpiadi, il problema diventerebbe enorme. Però qui il problema sta qui, cioè allargare, sviluppare Fiumicino, cosa che potremmo pensarci fra 2 o 3 anni, diventa la deadline per pensarci, significa avere anche un consenso sociale non indifferente, consenso sociale della città, che finora ha guardato Fiumicino come praticamente un servizio più che come un asset di sviluppo territoriale, ma un consenso sociale, specialmente con la gente che vive lì intorno. Il nostro rapporto, la nostra ricerca ha constatato come intorno all'aeroporto si sia andato creando una sottile tensione sociale, una sottile contestazione verso ipotesi di allargamento, una certa insopportazione dei disagi che oggi l'aeroporto crea. E quindi il problema è di non arrivare, quando faremo decisioni più avanzate, o dovranno essere fatte decisioni più avanzate, di non arrivare a dire beh allora si fa, a quel punto scatterebbe i meccanismi che abbiamo conosciuto già in altre zone d'Italia, in cui la realtà del territorio diventa conflittuale con la realtà dei traffici aerei. Questo è il punto. E allora bisogna trovare un modo di associare il territorio allo sviluppo dell'aeroporto. Una delle cose che ci ha molto colpito, ad esempio, facendo questa ricerca, andare a Monaco e Baviera e trovare che a Monaco hanno fatto il distretto aeroportuale, non hanno fatto l'aeroporto e il territorio circostante, hanno associato il territorio in un distretto dove ci sono due cose: da una parte opportunità diversissime, alberghiere, di hotellerie, di intrattenimento, di vita collettiva, e dall'altra parte una partecipazione delle popolazioni direttamente o attraverso gli enti locali alla formazione di un nuovo modo di pensare l'aeroporto e la funzione dell'aeroporto. Quindi la nostra tesi fondamentale è quella: perché non andiamo, non è merito né responsabilità nostra andare verso un distretto aeroportuale alla Monaco di Baviera, ma quella è la strada, altrimenti noi ci ritroveremo con, se non le barricate, i cortei, i no Fiumicino, no alle nuove piste, e questo non ce lo possiamo permettere, perché i numeri che lei ha dato prima danno il senso che Fiumicino sta decollando come grande aeroporto europeo e ha tutti i numeri per farne un ulteriore sviluppo di questo decollo. Dobbiamo essere cauti nel preparare il balzo in avanti. Oggi non è necessario farlo oggi, ma preparare il balzo in avanti significa che per il 2013-2014 noi dobbiamo essere pronti ad associare il territorio e le popolazioni circostanti a questa nuova sfida. Allora, Derita, direi che il tema se l'è praticamente chiamato da solo, ed è quello del trovare il consenso con le popolazioni locali. Abbiamo assistito anche in questi giorni e continuiamo ad assistere a delle proteste anche piuttosto violente contro la realizzazione di un'altra grande infrastruttura che in molti giudicano strategica, che è la cosiddetta TAV, l'alta velocità, quello che sta succedendo in Valsusa. Quello che vorrei chiedere a lei, che è anche un profondo conoscitore della società italiana, che per tanti anni l'ha studiata, l'ha analizzata a fondo, è come si risolve questa questione. Studio ancora, non usi il passato. Che continua a studiare, naturalmente, come si risolvono questi conflitti, cioè come si trova il consenso delle popolazioni locali, posto che in Valsusa c'è una protesta che non arriva solo dalle popolazioni locali, ma che parte da là. Ma guardi, il problema è che tutte queste grandi infrastrutture, qualsiasi esse siano, non hanno assolutamente bisogno del pugno di ferro, della decisione di vertice. È giusto farla e si fa. Questo credo valga anche per la TAV certe volte, perché alla fine questo meccanismo è giusto farla e si fa scontra con un meccanismo di realtà territoriale che immediatamente fa venire rancori, fa venire opposizioni, fa venire preoccupazioni di ogni tipo, dai rumori agli inquinamenti, alle meccanismi di sicurezza, alle paure. Questo è normalissimo che ciò avviene. Quello che è importante è che nella preparazione, in parte nella TAV questo non è avvenuto, si faccia un discorso di preparazione di tutti i soggetti implicati nella realtà. Non può esserci soltanto un'azienda e una dislocazione territoriale dell'azienda. Una infrastruttura e la formazione, la creazione dell'infrastruttura. Bisogna che la gente si renda conto e si senta partecipe e si senta anche interessata, perché si fa qualcosa che va in tasca anche a loro per certi versi, a un'operazione di quel genere. Bisogna prepararla prima, bisogna far capire alla gente che quello non è una specie di intrusione nel proprio giardino, è un'iniziativa comune, è una sfida comune di tutto il territorio. Se non si fa questo, poi certo arriva una tensione che parte dal territorio, poi magari arrivano i contestatori di professione, quelli non mancano mai, arriverebbero qui anche, avremo i black box pure a Fiumicino se fosse sbagliato l'approccio. Siccome siamo in tempo per farlo, il nostro rapporto indica questa soluzione, diciamo così, sociopolitica, di fare un lavoro di preparazione attenta e un meccanismo strumentale che è quello di progettare un quadrante aeroportuale, un distretto aeroportuale in cui tutti possono sentirsi protagonisti e codecisionisti di questo tipo di realtà. In questo senso, quindi, quello che bisogna fare, lei dice, è non solo preparare la popolazione locale all'arrivo di un'opera di questo tipo, ma anche creare, come voi ipotizzate per Fiumicino, un distretto, cioè far sì che tutto ciò diventi un'occasione di sviluppo e che anche la popolazione locale se ne renda conto. Sì, se uno progetta un distretto, poi fa anche, diciamo così, gli incontri o le attribuzioni di compiti con gli enti locali, riunisce tutti quelli dalle parrocchie ai centri sociali che stanno dentro alla realtà e cerca di dialogarci, cerca di capire, far capire le ragioni dell'intervento, li fa sentire partecipi. Noi stessi, facendo la ricerca, noi siamo di professione ricercatori, non facciamo progettazione di aeroporti, per carità, ma facendo la ricerca noi qui al Censis abbiamo riunito tutti i contestatori dell'area di Fiumicino e sono venuti tutti, hanno parlato tutti, hanno ragionato tutti. Significa che quello che manca certe volte è l'associazione ai meccanismi di conoscenza, di progettazione e decisione, e questo non è compito soltanto dei manager, è compito di una cultura complessiva di coesione sociale in vista di un obiettivo comune. Grazie, grazie a Giuseppe De Rita, presidente del Censis, e buonasera. Grazie. Questa dunque l'opinione di Giuseppe De Rita per quanto riguarda la costruzione di grandi infrastrutture. Nel frattempo vi do un aggiornamento per quel che riguarda i mercati. Dell'Italia abbiamo visto, insomma, giù tutto anche oggi, il FTSE MIB del 2,46, il FTSE OSHARE del 2,12. L'America in questo momento sta cedendo lo 0,22% sul Dow Jones, guadagna lo 0,34% sul Nasdaq, lo Standard & Poor's è praticamente in pareggio, lo Standard & Poor's 500 cede lo 0,02%. Un'ultima risposta ad un SMS, ci chiedete cosa sta succedendo ad Unicredit, francamente non lo sappiamo, va giù come tutte le altre banche, e ci chiedete, mi risulta gli stress test per molte banche erano positivi, ora come la mettiamo? Da più parti è stato segnalato una certa debolezza di questi stress test, insomma hanno degli stress test un po' troppo buoni. Ed è veramente tutto anche per questa puntata di Focus Economia, un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, Fabio Cantadori in regia, un ringraziamento come sempre a tutti voi per l'ascolto e una buona serata da Simone Spezia, ci sentiamo lunedì dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.